Vittimino Gigi, però gli stavo tendendo la trappola e tu non ci sei stato al gioco, eh? Guarda, si è disgraziato un cantore. Se facevo la cosa già, ti giuro, guarda, non ti avevo neanche più parlato, neanche se è entrato addirittura nel coso, Non fare cose del genere, Antonio, lo sai. Io ci metto anima e corpo a queste cose qua, perché ci sono più di 20 anni, grazie a Dio, e quindi la gente potrebbe entrare per me, dimmi se fa sentire a me, quello che è, come dire un... la fa cura pianto. Un bacio, fai la pace, dai un bacio. No, guarda, si è commosso Antonello. Antonio, non ti commuovere, è la verità. Comunque io stavo aggiungendo un'altra cosa, ho detto, fossero tutti come Antonello, allora saremmo andati bene veramente. Stavo aggiungendo quello, ma ti sei commosso Antonio, dai. Che è vero, la verità, perché è così. Da quando sono andato a Paracchino, grazie a Dio, su 14, su... ovunque stavo io era pieno di CB, perché è vero, a parte quello che ho fatto in incassare in un bar, che non l'ha fatto incassare nessuno in vita sua, dei CB di Sassari, quello che ho fatto io non l'ha fatto nessuno, la verità. E anche, vabbè, a volte ho avuto anche problemi magari per certe cose, per fare, diciamo, quelli che si impiccicano a parte all'altra, quindi ci ho rimesso io. Comunque, io sono pronto a fare una cosa del genere giusta e speriamo che vada bene e superare queste cose, perché di qua purtroppo, visto come da poco, da Vito Antonio, ci sono dei problemi, quindi bisogna risolvere, perché da una parte bisogna risolvere, o da una parte o dall'altra, non interessa niente, bisogna risolvere quei problemi, perché non fa andare così, non possiamo essere divisi in due categorie, A e B, la verità. Quindi bisogna, cosa ti posso dire, non lo so, fare qualcosa. Amore mio bello, se mi cuffi, attento, amore mio bello, se mi cuffi, con la buonasera. Ciao Antonio, salutami, ben entrato. Comunque aspetta, signor Pomponi, io buonasera. Lo sai che io ti amo, lo sai, sì. Sì, sì, stavo parlando l'altro giorno io di te. La verità, quindi bisogna che... Quanto posso dire, facciamo i santi, o non lo so. Qualcosa dobbiamo fare, perché non è possibile essere così. Siamo, in questo momento siamo divisi in due, la verità si dica. Quelli del 10 e quelli di un altro canale, e quindi bisogna risolvere il problema, bisogna arrivare a un punto che tutti e due si amino, quello che è, non ne posso dire. Aspetta un attimino, sinceramente, se ma non le lasciate entrare gente, no? Tu sulla B e gli altri sono sulla A. Io ho provato sulla B e poco a poco mi hanno detto che alla fine ci sono questi iscritti, hanno avuto questi problemi e alla fine non gli interessa darsi una stretta di mano e diventare amici, non gliene frega niente. Sulla B. Vabbè, io avrò sbagliato l'alfabeto, comunque il discorso è questo, io ho provato, diciamo, a cercare di congiungere la situazione. Sì. Però a quanto pare questi iscritti a molta gente non riescono a digerirli e con loro lo pensiero da una parte purtroppo bisogna accettarlo e non c'è niente da fare, io ho provato a convincerli ma non ci sono riuscito da parte loro e no, punto e basta. Un attimo. Allora, innanzitutto volevo parlare con Gigino Vulcano, come vedi comunque mi sono affiancato con due persone serie, affabili, e due persone con cui sicuramente si potrà costruire qualcosa, che sono il nostro Barracuda e Pomponio, che sono secondo me due persone squisite che ci credono nella cosa, nell'idea. Dopodiché io l'ho già fatto questo discorso, se qualcuno ha dei problemi ma fino a un certo punto interessa che li risolva, io non posso costringere che due persone a fare pace, magari metto buone parole, però a un certo punto sono grandi, sono vaccinati, avranno le loro ragioni per aver bisticciato e lo devo accettare, non devo stare lì a costringere nessuno. Quindi io non sono d'accordo con Antonello. Se avranno voglia di risolverle, se le risolveranno, se no pazienza. Certo è che mi dispiace se né uno né l'altro accetta che all'interno dell'associazione condividere un'associazione con queste persone, perché al pari di condividere il baracchino puoi condividere anche un'associazione, però questo è un discorso che ho già fatto, non mi va di rifarlo, mi metterò esclusivamente nella condizione di evitare che entrino persone che creino problemi. Senti, ma no, quello io neanche lo sapevo che c'era Antonello, però io di Antonello te l'ho già detto, l'ho detto perché Antonello è una persona positiva, te l'ho già detto io ho tanti anni che lo so, io non ho sentito mai bisticciare con nessuno Antonello, Antonello entra, come sono io entro con te, scherzo, parlo con tutti, non mi faccio, non mi piace fare, poi parlo subito in faccia, io le cose dico subito chiare, non so a mandarle a dire niente, però il problema è questo, si fa pace con, perché tante volte hanno fatto pace, si fa pace con uno e si bisticcia con l'altro, si bisticcia con quello, è stato sempre così, io li ho conosciuti sempre così, sempre li ho conosciuti così, non sono andati mai sono stati d'accordo, sono sempre divisi e questo Antonello lo può confermare, Antonello Pomponio lo può confermare, non sono mai andati d'accordo, mai tra di loro. Allora, il discorso è questo, l'altro giorno è successo purtroppo, la verità è una cosa strana, non mi aspettavo per niente, allora, c'è stata una specie di cosa, di, non so, cosa vuoi dire, è entrato Gianni e ha fatto Antonello, dice, Tonio Antonello, dice se vuoi sono andato a canale, di cui la verità non era giusto, di fronte di nessuno la verità, perché l'ha messa in ponte, perché così, allora ci sono problemi da una parte, cioè da una parte all'altra, il discorso è questo, ci vediamo, come si faceva una volta, ci vediamo da una parte, si discute. Quale problema c'hai tu? Io c'ho questo problema. Tu quale problema c'hai? Io c'ho quest'altro. Si mette così. Non è che ci deve rimettere la 27 per dire Gen 2, per che cosa? E si rigenera. Queste sono sempre serie. Abitazione, cioè non un'abitazione. Sembra essere un condominio. Diviso in due. Tu perché tu fai parte di quella parte e quindi devi stare da quella parte, tu sei da quell'altra, devi stare da quell'altra, giusto? È così, ma non possiamo condividere le stesse cose, perché non può essere, e quindi o destra o sinistra, oppure al centro, si fa l'ultimatum, dire, si ragiona, perché non può essere una cosa del genere, la verità, per quello la penso io, e ci è stato uno sbaglio. Si risolve, come tutti da parte, comunque, adesso vediamo un po' come vanno le cose, perché non è possibile continuare così, sembra muro contro muro, la verità, da come la penso io. Scusate un attimo, scusate un attimo, il discorso è anche questo, e ci sono degli iscritti, purtroppo, bisogna anche sottolineare, aperta parentesi, siamo persone adulte, chiusa parentesi, ed è quello che è il problema più grande, con la scusa è una persona è adulta e ha un pochettino di sale in zucca, se uno veramente vuole fare qualcosa, giustamente gli iscritti mettono da parte, ma quando da entrambe le parti non c'è collaborazione, alla fine purtroppo, ripeto, io ci ho provato per capire un po', anche sinceramente in tasca non mi entra niente, non si risolve niente, alla fine purtroppo bisogna andare avanti e purtroppo, ripeto, purtroppo bisogna selezionare le persone per avere qualcosa di positivo, anche se sinceramente è brutto selezionare, però uno è costretto a farlo per andare avanti e questo è arrivato a un certo punto, è l'unica soluzione positiva che bisogna affrontare, non c'è altra soluzione. Va avanti il brecco. Esatto, io sono Antonio Bombo, sono. Volevo dire, prima di tutto, di farvi fatti vostri, che lo sappiamo noi che cosa è successo e voi non avete manco immaginazione, perché voi siete gli ultimi arrivati e non lo sapete. Qualcuno lo sa. E quindi se volete entrare sul 21 entrate, però non siamo con gli esistenti, non siamo con gli esistenti e cosa. Qua sono successi, se c'è stato troppo perdono, la cosa che ha fatto traboccare il vaso è che una persona ha girato troppo le balle e ha toccato certe cose che non doveva toccare. Quindi voi non sapete niente, siete l'ultima ruota del carro, fatevi i fatti vostri. Scusa Bombolo, ti posso disturbare un attimo? Bombolo! Sì, sì. Scusami un attimo, allora tanto per iniziare, noi non è che stiamo cercando di farci i fatti vostri prima, attenzione, non stiamo cercando di fare i fatti vostri, noi stiamo cercando di organizzare qualcosa per stare tutti insieme tra amici. A me sinceramente dei vostri problemi, delle vostre bisticce, non mi interessa prima di tutto. Stiamo cercando di unire la cosa, attenzione, unire, stare insieme, non divisi. Non è che stiamo sinceramente facendo i fatti vostri, stiamo cercando di risolvere la cosa per stare insieme tra amici. Attenzione, la cosa più importante, stare insieme tra amici. È tutto lì, né più e né meno. Io lo capisco benissimo, voi c'entrate, quando parliamo noi siete bene accette, non c'è mai fatto nessun problema, però ci sono altre due persone che hanno scassato la bella e noi non vogliamo più avere niente a che fare, punto. Voi non ci avete fatto niente e noi non ci interessa di andare, cioè neanche di dirvi mezza parola. Siete persone in gamba, cosa? Però io con due persone non voglio più niente avere a che fare. Mani girate i guglioni, in poche parole, come lo volete capire? Posso prendere la parola io? Vuoi dire, scusami, ho capito cosa vuoi dire, ma scusami se permetto, ma non c'è bisogno di entrare così, tra virgolette, e prenderci a calci nel sedere così quando stiamo cercando di risolvere il problema. Come sinceramente da parte tua non mi sembra neanche giusto entrare così e dire fatevi i cazzi vostri, in poche parole. Stiamo cercando di risolvere il problema per stare tra amici, solo devo dire amici nel vero senso della parola. È tutto lì, non mi sembra giusto che tu ti giri con noi senza farti niente, è tutto lì. Poi alla fine è arrivato un certo punto, se uno entra così come fai tu, adesso per dire con prepotenza che non abbiamo detto niente, anzi stiamo risolvendo il problema anche per voi, non mi sembra giusto che tu ti giri così, ma no, cioè, il problema è già risolto, quello che abbiamo detto, non c'è nessun problema. Noi con certe persone non vogliamo più niente avere a che fare. È inutile che ci sta a dire boom, ma quello e quell'altro. Ma lo sapete che abbiamo perso il conto. Ma quante volte vi abbiamo perdonate? Abbiamo perso il conto. Cioè, rendetevi il conto voi. Però c'è un'altra cosa che io qua non posso dire in radio, una cosa che ha fatto traboccare il vaso. Che le persone non ci cercano, alcune persone non ci cercano, quindi quelle sono le cose che hanno fatto traboccare il vaso, quindi basta così, finito di quel discorso. Noi con certe persone non vogliamo avere niente a che fare, con voi non ci avete mai fatto niente, perlomeno, e va bene così. Però, e quando le cose non si sanno, soprattutto una persona qua ha detto che è cosa, ma non è così, non è così, noi non siamo pagliacci, non siamo persone, cioè non siamo né invidiosi né niente, noi siamo persone in gamba vera, cioè non devono vogliare fare il buio da un piccolo pallino. Cioè, scusate un attimino. Fatemi prendere la parola 5 secondi perché vorrei spezzare una lancia nei confronti di chi Bombolo, non è entrato in merito al motivo per cui avete bisticciato, che puoi avere 2000 ragioni e non posso dirti niente. Come ho sempre detto, io non posso costringere due persone a fare pace. Mi dispiace, ci tento, dopodiché questo non è che vuol dire farmi i fatti degli altri. Perché non entro proprio in merito al motivo per cui avete bisticciato, che può essere più o meno valido. A me dispiace esclusivamente che si condivida una situazione e si stia separati, perché già siamo in pochi, stiamo cercando di tirare su qualcosa di buono, di bello, e mi piacerebbe avere tutti quanti all'interno di questa realtà, che non è una mia realtà, ma è una realtà della città di Sassari nel momento in cui prende piede. Capito? Non mi prendo i meriti, né tantomeno i soldi che non ci saranno. Però mi dispiace che persone che stimo comunque stiano dalle parti opposte di una barricata. Solo questo. Dopodiché, se vogliamo far girare anche nei confronti degli altri, evitiamo il ping pong. Avanti, Gigino. A me dispiace, però c'è stata una confusione. Se qualcuno si avrebbe messo la lingua, si avrebbe preso la pubblica, si avrebbe tagliato la lingua, queste cose non sarebbero successe. Queste cose le abbiamo fatte tutti uno per uno e tutti per uno. Avanti, lui. Positivo, certo. Non lo so, io... Che dire, non lo so, guarda, io già lo stavo dicendo prima perché la verità non ci stavo pensando a te, perché non sapevo manco che avessi bisticciato con qualcuno e che lo sapevo, però in tanti anni me ne è capitato e ne ho sentito di e visto di tutti i colori, ecco, stavo solamente dicendo questo, solo che lui, quello che ti dice, che ti vuole dire Antonio, che non è che sta obbligando nessuno e quello e quell'altro, lui solamente sta cercando di riuscire a essere tutti amici come prima, come una volta, solo questo, poi giustamente ognuno la pensa come vuole, non può costringere uno a cambiare idea, e capito, perché beh, a quanto pare, diciamo, no, la soddisfazione non va da uno, non va dall'altro, a quanto si vede, e allora non puoi forzare a nessuno e niente, no, anzi a me non mi va neanche di parlare di queste cose, perché non mi va di giudicare a nessuno e di ammischiarmi in queste cose, non mi va, perché io sono amico con tutti, sono amico con Antonio, sono amico con tutti quanti qua a stazione, non mi va neanche di fare commenti su questi problemi vostri, dai, non mi va, perché sono amico di tutti quanti io e non voglio entrare in merito di fare nessun commento su questa cosa. Parlando con altre persone e cose, cioè chi ha cominciato a dire guarda, sono così allucinato, guarda, non voglio fare commenti, io non voglio fare commenti, tutto quello che ho saputo, tutto quello che abbiamo saputo, cioè non sto scherzando, che io devo continuare a parlare con chi si, cioè non c'è una confluenza, noi vogliamo fare le cose nostre, basta, cioè noi siamo, se sei entrato siamo in un certo bene accetti, se noi, cioè, noi siamo i cattivi, cioè, i ghiglini bisogna vedere, noi russi no, cioè, noi siamo persone, ci riteniamo di essere persone come si vede, non mettiamo importanza a nessuno, non rompiamo le balle a nessuno, cioè facciamo i cavoli nostri, cioè siamo persone in gamba e così vogliamo essere, non vogliamo andare con chi si dice a volte, fargli un po' più parati, no? Quanto le cose, allora tu non lo devi sentire con le tue orecchie, devi ascoltare, non dette da altre persone, riferite le cose, capito? Tu devi ascoltarle, devi cose che hai sentito tu parlare, non dette da altre persone, perché a volte dette da qualche altra persona, lo sai com'è la cosa, no? No, Luigi, non è che detto, no. Non è solo detto, è così, che è l'inverso, è così, perché poi cioè, tutto quello è una conseguenza di cose, i fatti sono veri, non è che sono detti, li hanno detti altri, cioè, siamo venuti a portare i fatti, ci siamo rimasti in vero, cioè ci sono rimasti così. Poi come a caso, cioè, io voglio stare tranquillo, voglio parlare con le persone che mi guardano, cioè senza rompere le balle, con le persone che io non voglio più parlare, io l'ho cancellata. È andata così, tutto il discorso anche. Voi dovete capire noi che il prego ci hanno toccato troppo. Cioè, non va bene. Politi, ma tu no. Io da parte mia no, non faccio nessun commento perché non so, io so solamente una cosa di Gianni con Claudio che l'ho sentito io ero in ascolto, non è niente, però non è bisticciato perché mi pare che non abbiano neanche bisticciato Gianni, io anche se in ascolto Gianni mi sento, io mi ricordo che Gianni ha detto, ho sentito certe cose che ha detto nel mio corto che a me non mi sono piaciute e non voglio avere l'onore di parlare più con te. E con te non voglio avere più niente a che fare. Io mi pare che sia finita lì quello, ha detto, se così vuoi così sarà. Però dice, non ho capito cosa ti ho fatto, ti ha ripetuto un'altra persona. E basta, io ho sentito questo discorso tempo fa, ma non è che c'è stato un bisticcio, c'è stata una cosa. Lui ha detto, io non voglio avere più a che fare con te perché ho sentito certe cose che tu hai detto nel mio corso di me. Ho sentito che mi hanno riferito che tu hai detto certe cose sul mio conto, così queste parole, non è che c'è stato un bisticcio, c'è stato un chiarimento così e basta, e poi tutto lì, solo questo fatto qua, poi dell'altro non perché l'ho sentito io questa cosa, l'ho ascoltata io il giorno, capito? Solo queste cose così, poi sono altre cose, non lo so, altre perché non è che sono sempre attaccato alla radio, stasera ci sono, non è che sono sempre attaccato alla radio ascoltando e sentendo le vostre commenti, capito? Però non lo so, a volte le cose quando arriva il tempo si mettono a posto, cosa vuoi che ti dica, solo che si sono messi a posto tante volte e sono durate poco, per quello che stavo dicendo a Antonio Frutti poco fa, perché tanti anni mi è capitato e ho visto, si bisticciava, dopo un po' si mette, tornavano in pace, ma tutti in generale sto parlando, non sto parlando sempre di quelle due persone, io sto parlando di altre persone. E bisticciavano, poi tornavano nuovamente a parlarsi, poi si bisticciavano nuovamente e hanno tirato avanti io tutto il periodo che sono stato qua in radio ascoltando, è durato, è sempre così, infatti l'unica cosa che stavo dicendo Antonio, ho visto Antonello Pompurio di questa cosa, era dispiaciuto, anzi si è anche commosso prima perché a lui personalmente c'è tanti anni, ha detto che a lui gli fa male proprio sentire queste cose e essere in queste condizioni, tra di noi gli fa male, siamo quattro gatti eppure vedi che cosa succede, perché Pompurio poco fa si è commosso ed è giusto perché Pompurio è una persona, è l'unica persona, l'unica per me in questa 27 che c'è a Sassari, è l'unica, e lo ripeto, lo dico, è l'unica persona che non ho mai sentito in radio bisticciare con nessuno, scherzare con tutti ma bisticciare no, è sempre amico con tutti Antonello, e questo lo dico e lo confermo. Confermo, però ci sono anche altri fatti, adesso Gianluigi tu lo sai benissimo, c'è la stessa persona che adesso c'ha la radio modificata, ha detto tutti quanti che il ghisi del 45 è tutti quanti carriage e quello non va bene. E vabbè, scusate un attimo, comunque io a Pompugno lo amo, un bacio amore mio bello. Scusate se mi inganno, comunque a me piacerebbe sapere cosa. Cosa posso dire? Eliminare questi problemi che ci sono tra Claudio, tra Antonio e tra Gianni, la verità mi dispiace un bel. Quindi vediamo di incontrarci in qualche un circolo. Ci con la birra, non me lo sbatte nulla a me. Però almeno eliminare questi problemi, perché questa è una fesseria, queste cose sono una fesseria, sono partite solamente perché lui e Claudio una notte è capitato, capita anche a me, per dire, di essere in quelle condizioni, entrare, come ti posso dire, offendere. A me la verità è capitato così, non mi ha fatto proprio niente. Però passaggio intorno al 27 non va bene, la verità. Cosa vuoi dire io? Io l'ho preso così, quindi cerchiamo di abbassare, come ti posso dire, andare in un bar, quello che è, ci vediamo tutti, quello che è, beviamo, come facciamo una volta, tanti anni fa, facciamo un problema, andavamo in un bar, bevevamo, tutto si risolveva, però così non va bene, la verità non va bene, perché ci rimettono tutti. Non possiamo fare una pubblicità negativa per i barati, in verità. Possiamo farla. Già siamo pochi. Meglio che entri persone. E non devi essere tra noi, la verità. Io la penso così. Poi non lo so. Cosa vuoi che dica? Magari sto sbagliando. Perché sto sbagliando. Comunque, io la penso così. Tutti amici e basta. Dobbiamo festeggiare. Andiamo in qualche casa, in qualche ristorante. Mangiamo, ci becchiamo, cosa me la fotti? Però almeno ci divertiamo, è inutile bestiare da noi, siamo pochi ma buoni, aiuta, facciamo un coso, là. Cosa posso dire? Non lo so, io la penso così. Scusate un attimo, scusate, posso dire finalmente una cosa seria, ci tengo a dirlo. Io vorrei che le persone arrivate a una certa età devono essere un attimino più tolleranti. Adesso non vorrei mettermi in primo piano, però guardate me, che sto condividendo questa associazione con Gentaglia come Alessio Pomponio e con Antonello, come si chiama, Barracuda, noto Vermentino da oggi. Questa è vera tolleranza. Grazie. La pubblicità da parte tua, ti ringrazio comunque. Parlato male di me e io gli voglio bene lo stesso. C'è problema, io tanto non muoio stanotte a limite, non ti preoccupare. Già ce l'ho a mangiare. Tante volte, ma tante di quelle volte c'è stato un tempo, adesso basta. E si inizia così e basta, c'è comunque parlare, c'è noi che parlato, ci facciamo da. Cioè, lo sapete, noi siamo... Dammi un bacetto. Lo sapete, noi siamo sul canale, quando volete. Hello. Dimmi, amore mio bello. Mi un bacetto. Amore mio bello. Guarda, non sai cosa vorrei da tutti quanti, la verità. Non un bacio. Vorrei... Cosa ti posso dire? Ci incontriamo tutti quanti all'alberghiero, a Cico l'alberghiero, da Maria Manca, su, ci beviamo la birra come facevano tanti anni fa, guarda, dimenticati tutti i problemi che ci sono da noi, la verità, perché sono fesserie quelle, e fare qualcosa di concreto, la verità, solo quello voglio, solamente quello, non voglio altro, la verità, se no è inutile usare un malacchino. Ma che cosa? Dopo ti piace? E dopo che parlo ci ho avuto una mondezza. Ho senza un sacco di soldi, quello che non saranno. Buttarlo così non esiste. Quindi io ho avuto dei problemi, ma tanti problemi ho avuto tanti anni fa. E quindi voglio combattere, la verità voglio combattere. Perché ho spese ne ho avuto. È quello che è, comunque voglio avere una cosa concreta, tutti amici e basta, voglio che tutti quanti subito i problemi che hanno, basta, non costa niente, 5 minuti, andare al bar, ci vediamo come capita a tutti, dei problemi risolverli, solo quello voglio, non voglio altro, poi magari mi sbaglio quello che è, poi ti dico quello che voglio, io penso così. Poi non lo so, la verità non lo so. Però speriamo che siano pochi problemi, perché se li risolvi sempre al bar, ne lasci alcuni e poi ci ritroviamo tutti quanti a farci operare di fegato. E non me ne frega, ma l'importante è avere i problemi risolti, la verità. Anto, perché io la penso così. perché io ci credo su queste succede cose. Gli altri magari non ci credono proprio, però io ci credo. Voglio bere una cosa come si deve. Tutti amici e basta. Non è che ci abbiamo da fare. Se dobbiamo fare una cosa, la facciamo e basta. Non è che ci abbiamo da fare tra noi. Facciamo a fare, scusami. A essere quello di partito del PD e l'altro del PDL. Tanto vanno tutti i quattro a cena a pranzo, mica lo sai, sotto sotto, perché così. Quindi, a un certo punto... Cercando di drammatizzare, ci mancherebbe. Comunque, avanti gli altri amici che stiamo monopolizzando. Tutti andati se ne sono, hai visto? E non mettermi in musica, non te lo dico io. Non è che mi riparo la telefonata. Mi Antonio, cosa hai detto? Ieri sera, io mi rispondo ieri sera. Parlare così. Questa è la verità. E poi cosa ti dicono come bugia? Che sono uno stronzo. Vero, lo sai che io ti stimo ed è per quello che ti ho voluto a fianco in questa scommessa che porteremo avanti e vinceremo. Magari, guarda, magari, io te lo auguro, guarda. Io te lo auguro, guarda. Io bisogna fare un giro di CP che conoscevo prima, sì, ne conoscevo, conosco tuttora, ma di rientrare perché non è possibile, a un certo punto non possiamo essere divisi, scusami, uno su 10 e l'altro su 21. Non esiste, la verità non esiste, non mi piace a me, una cosa del genere. Essere divisi di casa per i canali per che cosa? Cazzate, questo è un cazzate, sembra di essere di marito e moglie, non mi ha fatto quello, non mi ha dato quello, io non tengo quell'altro. E quindi, automaticamente, si mi dice. Scusate un attimo se mi interrompo, Niente, allora, per drammatizzare la situazione, a quanto pare, sembra... Cosa vuoi che ti dica che non si possa risolvere? Cosa mi dica? Pazienza. Pazienza, Antonio, è arrivato a un certo punto. Ci hanno provato per il bene, attenzione, per il bene non me ne vergogno. Se deve entrare sul 21, io entro se sono ben accetto. Se non sono ben accetto, pazienza. Andrò sul 10, sul 5, ce n'è gente, per fortuna. Poi chi mi vuole problemi di modulare, non ce n'è. Perché anch'io sono come Antonio, mi piace modulare con tutti, scambiare una chiacchierata e stare tra amici. Poi, l'associazione deve nascere bene, e bene nascerà. Dunque, per fortuna che c'è il signor Grode che ha tirato sulla situazione, la sta tirando abbastanza bene, piano piano, ma sta andando avanti e sono contento. Dunque, se uno crede in qualcosa, nasce benissimo, dunque problemi non ce n'è. Adesso, per arreglare le vostre orecchie, vi passo una bella signorona e attenzione. Io mi faccio prendere, guarda, stasera, e faccio l'armato per prete, ti giuro. Buonasera, Pomponio, ti voglio tanto bene. C'è questa vocina così tanto... mi entra nel cuore. La voce di Pomponio. Mamma mia. Sì. Se mi siete Simona, mi ammazza stanotte. Che vino stavano dando a Porto Torres? Che vino stavano dando a Porto Torres? Ha variato. Bianco, bianco, bianco. Te l'ho detto, adesso glielo togliamo il nome Barracuda, gli mettiamo Vermentino. Vermentino. Ma che Vermentino? Che bianco, Vermentino, bianco. Ah, per quello. Ascolta, signor Grosso, ma non è che sei geloso perché non faccio un complimento a te? Assolutamente sì, assolutamente sì. Però dimmi un pochettino, la tua voce è molto, entra proprio dentro, proprio negli orecchi, entra, si fa sentire tanto, è molto, molto, molto sensuale. Molto sensuale, vedi? No, perché devo dire la verità, signorina, perché a lui gli hai detto che aveva una voce carina, a me mi hai detto che sembrava un carabiniere fino ad oggi. Adesso diciamo che ti sei salvata in corner, dai. Curva, non sono salvata, diciamo, da... No, la sua mi sa molto di... è delicato quando parla, e si entra nel cuore, mi trovo è forte, è da guerriero proprio, non mi capisci? Non ti capisco, assolutamente sì, vedo che hai individuato la situazione, ma perché nella vita c'è poco da agitarsi, soprattutto per chi è abituato a... agitarsi per cose un attimino più serie. obiettivamente di alzare la voce, sprecare la voce per altre cose, non mi sembra il caso, no? Hai proprio ragione, guarda, secondo me sono parole state così buttate dal vento, perché come hai visto se ne sono andati, ci hanno lasciato così, senza un saluto, senza niente, boh, secondo te cosa ne pensi? Ok, a parte non ci ha lasciato nessuno, sono assolutamente tutti giustamente e piacevolmente all'ascolto, perché sai, se uno non ha niente da dire è bene anche che stia in ascolto, la cosa peggiore è quando non hai niente da dire e parli, allora è peggio, mentre io apprezzo, più di una volta mi è capitato di ascoltare, è un'ottima prerogativa delle persone quelle di saper ascoltare, assolutamente. Chi sa ascoltare poi sa anche parlare. Hai ragione, a me piace molto ascoltare, soprattutto voi due, quando ci siete voi due in ruota mi rallega il cuore. Chi mi stai dando del voi? Io e me stesso. Sai cosa penso, Anto? Lo pensi? Mi sembra di essere, che posso dire, un messia, io e tu, tutti e due, un messia in mezzo alla... è proprio che ci sono, la verità, non vuol dire altro, comunque, mi hai capito, perché qua ci sono problemi di, la verità, problemi sembra di essere, non lo so, nelle contiglie di... No, sono dei ragazzini di 15 anni, la verità. Io la penso così. Ma magari se qualcuno si offende, non lo so. Comunque la penso così. Qualsiasi cosa si può risolvere, la verità, come la penso io. Da grandi, non da piccoli, da grandi. E quindi... Magari si diventa anche più amici. Quando si risolvono, la verità. Perché è successo sempre così, a Tarachino. Poi non lo so... magari sto sbagliando, sono un deficiente, quello che è. Per lui la penso così, non lo so. Non so cosa dire, la verità. Pazienza, la penso così, non posso dire altro. Vabbè, e abbiamo, signori e signori, abbiamo ascoltato il pensiero di Antonello Pomponio. Le nostre trasmissioni di stanotte continueranno con il Largo di Albinoni, suonato da Antonello Barracuda. Avanti. Senti tesoro, non ti abbattere così, mi dispiace quando ti sento così, sai? Non devi essere così abbattuto per gli altri. Secondo te gli altri di te se ne possono fregare di meno? Tu pensa a te stesso. Se tu vuoi realizzare qualcosa, vuoi fare qualcosa insieme agli altri, falla! Ti senti di volerla fare, falla, fregatene degli altri, se gli altri la vogliono fare, al di fuori di quello che è successo, che a me non mi importa niente perché io mi stavo ascoltando, se la persona piace fare una determinata cosa, ce l'hanno dentro la voglia di fare, la fanno, ma non per questo bisogna stare lì, dai, mettiamoci, perché secondo me sono tre parole, buttate al vento e tempo perso. Patrizia, scusate un attimo. Il problema di Pomponio è che già dopo la seconda bottiglia si dimentica di stamparle e si fingude di vinta ruddappo della bottiglia di birra. Quindi, arrivata una certa ora, gli fa acidità, capito? E gli vengono questi pensieri strani. A tuo marito gliel'hanno dato in bicchiere il vino e quindi non ha avuto questo problema. Però, fra Serra Secca e, come si dice, e Ussi oggi, ci saranno delle onde elettromagnetiche strane dato dall'alito di tutte e due, uno di birra e l'altro di vino. Ma guarda un po', certo che sei disgraziato e la verità si ricca, e allora, sai, ti dico, vai a fanculo tu, l'associazione, mi faccio stazione di li mutilati in pari civili e me lo rimangio, cazzo. E a un certo punto mi diverto. Tu te ne devo tagliare le gambe prima, dai un bacio, dai un bacio. No, no, no, no, no. Sì, mi ha offeso. Poco fa, scusami. Adesso faccio quello che vuol fare, non interessa niente. Domani mattina faccio la domanda, a me la mangio pesce, alla luce uguale di c'erano le sardine, ma non ci sono neanche andato. Adesso dopo la luce mi si è messo un bistecche, vado lì, allora mi diverto. Non mi sento con nessuno. Antone, guarda che la città. Vogliamo bene, finindela. Oh, prima devo, per andare negli invalidi prima gli dovevamo tagliare, nei mutilati bisogna tagliarti una gamba. C'è una gamba tagliata, qual è il problema? Scusami, c'è il palo, l'ho diminuito. Così ti vengono le stazionarie poi, fregate. E c'ho le 5 stazionarie, non lo so io. Zio Vulcano, da parte. Sano, giustamente si è dissociato. Ho preso l'altro microfono sbagliato e non rispondevo a quello lì, dai. Ho preso il microfono sbagliato e non ho bevuto io, mi anto. Detto che tu sei una persona seria, a parte che ho visto che durante quella manifestazione avete bevuto più acqua che altro, e questo fa capire davvero che cosa sono i camionisti, assolutamente. Guarda che non ho bevuto neanche io, ho detto, io non ho bevuto niente. Tanto quel giorno io stavo male, capito? Ero una settimana, giorni prima, che non potevo alzare dal letto, capito? Il giorno avevo preso pastiglie per stare bene, capito? E non potevo bere, hai capito? Perché anch'io quando smetto già, detto, sono di buona forchetta e bevo pure, il giusto sempre. Però il giorno non stavo, voglio dire, erano due giorni che mi ero messo in piedi. Farò, no, ma adesso a parte gli scherzi, anche gli altri ho visto che erano molto limitati, molto. Avete dato mattana un po' alla cameriera, che ho visto che tutte le foto ci avevano lei come rappresentante. Sì, e beh. Purtroppo i camionisti sono fatti così, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. No, è andato molto bene a tutti, ripeto, non me l'aspettavo. E ti dico una cosa, si è chiacchierato, si è così. Siamo divertiti, guarda, ci siamo solamente divertiti. E tanto stiamo già organizzando per l'altro anno prossimo. E te dico già che sarà la terza settimana, terzo sabato di luglio. È già organizzata, è già fatta, e la cosa saremo molto di più, capito? Io te l'ho detto che io vado sempre a cose, quel raduno siamo intorno ai 400, in quello che vado io lì a Novara, a Borgomanero. Diciamo, io sono sempre invitato su tutti questi cosi, a Palermo, a Ragusa, ero sempre invitato anche quest'anno, a me mi invitano perché mi conoscono tutti, quelli che organizzano, io conosco tutti, sono uno che conosco tutti, poche parole, mi conoscono tutti, questo vulcano è conosciuto in tutto il mondo, hai capito? Poco fa mi c'era Falchetto ed era in Olanda, io ho chiamato, ho fatto solo la senza dire il nome, l'ho chiamato io, ho chiamato a lui per nome e lui mi ha riconosciuto, mi ha detto ecco il principe della Sardegna, dice Vulcano, ed era in Olanda. Ti puoi immaginare, poi ce n'è un altro, mi ha riconosciuto la voce stessa, sto parlando con Falchetto, e mi ha chiamato ed era dove era quello lì in Sicilia, non mi viene adesso, che stava andando verso Ragusa, anche quello lì. E quello già ci trovavamo lì a Borgomanero, con questo siamo stati assieme per 2 anni in questa manifestazione. E sono sempre modulato, mi conoscono direttamente alla voce quando parlo. Farogia, come si è visto, si evince assolutamente che sei amato e stimato da tutti. Siamo stati un po' maleducati però nei confronti di Luca di Porto Torres, che se non sbaglio non è in parcheggio, sicuramente sarà anche addormentato. Luca, avanti se ci sei. Giustamente ha fatto QRT. Assolutamente sì. Antone, ma domani siamo a casa tua o no? Certo, c'è a casa mia, qual è il problema? Sono qua io. Sì. E io? Perché hai detto che te ne volevi uscire dall'associazione, se no, dillo subito, perché se no lascia le chiavi sotto lo zerbino. Mamma mia, mica sei divertito, come la verità. Io sono questi cose questo era, poi non lo so. Se gli altri abbandonano sono fatti loro, ma non è, non è che mi frega poi tanto, la verità. Io ci credo e ci ho creduto, la verità. Poi gli altri, se vogliamo mettere i battiti fra di volte, sono tutti di loro. Il discorso è quello. Lo sai, già lo sai che io ti ho coinvolto proprio per questo motivo, perché A come vecchio CB, poi perché sei sempre stata la persona a cui ho fatto riferimento da quando avevo 14 anni. Quanti Barracuda, Barra e Cuda. Ehi, Barracuda sempre da questa parte. Niente, ah, voi andate da Antonello, a me non mi cagate neanche. Oh, che ci sei anche tu. Non dobbiamo fare il triangolo. Ah, è già vero, sì, il triangolo con l'amore mio. Ascolta, e a che ora domani mattina? Domani mattina prima siamo alle spese, a fare colazione a spese della torre di controllo. E dimmi l'orario che vi avvicino direttamente. Su a che ora va a fare colazione? Noi ci appostiamo dalle 8:30, 9, lì in piazza... al quadrato, dopodiché abbiamo fatto colazione, passiamo e le facciamo scendere a cosa? A Capipirito. E allora facciamo così, fai esagerando alle 9, ora io passo a prendere a signor Pomponio e lui ci portiamo. E beh, cuoricino, da solo lo lasci, siccome a quell'ora non si è visto manco i piedi, che sarà ancora addormentato. Che bugiardo che sei, qua. Poi Altu, se non paga il torre di controllo è Pomponio, sicuramente il primo che è stato eletto è lui, il primo che è stato eletto è stato lui e gli tocca a lui. Assolutamente sì, è vero, ce lo portiamo per pagare. E se fresca allora tu. No, comunque a parte gli scherzi, a che ora passa Antonè a prenderti? Dove, mezzo 10, allora, non lo so, 9:30, cosa ne so io, cosa passi tu? Comunque sono sveglio via con l'ora, non ti preoccupare. Io la mattina mi sveglio sempre alle 6:30, poi sono fatto così, la verità. Ormai sono abituato a lavorare così e basta. Allora facciamo così, tu guarda, domani mattina accendi il baracchino sul canale 5, quando ti chiamo sono sotto casa tua, non so il signor Grode a che ora si sveglia e si fa il bidet e poi esce fuori, dimmi a che ora ti puoi vedere anche tu di apprezzare i segni. Il signor Grode funziona così, alle 7 si sveglia, fa la pipì e poi si alza dal letto. È sicuro. Fa la pipì nel letto e poi si alza così. Appunto, quello che sto dicendo io. C'era ancora, come si chiama? Non Cossiga, ma Pertini. Dice la giornata del presidente. Il presidente si sveglia alle 7 del mattino, fa la pipì, espleta i suoi bisogni corporali e dopodiché si alza. Ha defisciato, andiamo bene. Siete sovramodulati, comunque dai, 9:30 piazzale segni, bene, va come appuntamento. Va, aspetta un attimo, Gigi, ti volevo chiedere, ma le magliette per la manifestazione dove le avevate fatte fare? A Cagliari sono state fatte, le ho fatte a Cagliari. Già ti avevano chiesto orientativamente, te lo ricordi? Da 10 euro, la maglietta abbiamo preso 10 euro. Ma stampata da una parte e dall'altra? No, l'hai vista? Sì, cioè, dietro c'è la Sardegna e c'è scritto primo raduno comunque c'è la Sardegna, c'è la Sardegna col primo raduno lì a Polo, 45 mi pare, e poi da madre c'è il nome. Ma è un prezzo di favore oppure fanno così se gli dovessi fare un'ordinazione? Questo anche qua, lì perché si è interessato, allora io mi sono interessato a altre cose, di ricercare un po', io siccome conoscevo tutti, sempre dici, conoscevo tutti man mano che li vedevo, dicevo guarda che c'è questo pranzo, così e così, ho fatto con un po' di questo, ho fatto che mi sono interessato di questo, e loro sono interessati si è interessato delle magliette lì, l'ha fatta mi pare a Simini, capito? Ma questo che costa una cosa del genere, quando ne fai un po', perché ha fatto quelle magliette classiche, quelle di cottone, capito? Quelle lì sono state fatte. Antonio, lei che mette nel pensiero? Leggo sempre nel pensiero a tutti, assolutamente, però noi le faremo col colletto, ecco, il ricavante, perché siamo un'associazione già ricca. Allora stavo pensando, fare delle magliette giustamente con le misure che uno porta e dietro col nominativo giustamente che uno porta, io Barracuda, Pomponi o Tu Grode, capito, per distinguerci, una bella storia anche quella, Ma sai che ci stavo pensando? No, no, aspetta un attimino. Allora, davanti ci devi mettere il nome e dietro ci devi mettere l'associazione, capito? Nelle spalle, l'associazione che state facendo ci va nelle spalle. E davanti ci va il nome nativo, se lo volete, o cosa volete, bisogna vedere come la volete fare voi, capito? Se no, se fare il coso dell'associazione davanti, senza nome nativo, se volete il nome nativo ve lo dovete mettere davanti. Se guardate quelle filmate di Porco Manero, quelle col colletto, c'hanno tutte la scritta davanti e poi lo stemma delle cose ce l'hanno dietro, nella spalla. Ma voi l'avete fatto per una questione di potervi riconoscere quando vi guardavate l'uno quando parlavate anche lì a pranzo, capito, per capire chi eravate senza dovervi girare e vedere le spalle, quello lì è più utile. Però se le vogliamo fare un attimino così per le manifestazioni va bene anche con la scritta in grande dietro del nominativo. Ci vuole anche uno stemma o sbaglio? Guarda, se trovi una persona che allora, ci può fare uno stemma, chiaramente utilizzando le figlie per e quella che poi c'è, io non ho capito, tu, ma il computer ce l'hai tu? Ti dico una cosa, io proprio Manero non ho mai indossato la maglietta, lo sai, io ho tutte le cose qua che ho fatto, la bergamella, come la puoi chiamare, c'ho io, che la data, il giorno che ero lì, che io ero presente a Porco Manero, a quel giorno lì, ero presente alla manifestazione, al raduno che c'è scritto qua, anzi te lo dico pure qua, c'è scritto, ci ho tutti nei quadretti e messo appesi. Ma io, cioè, no, stavo dicendo assolutamente come le faremo, a proposito, aspetta che abbiamo lasciato Antonello Pompugno, vieni avanti Pompugno. Io vi lascio un attimino che siamo dalla macchina, mi metto nella mia postazione qui a casa, tra due minuti ci sentiamo. Ancora in macchina, sì, ui ui, Antonio, vieni avanti. Dimmi, sono qua. Comunque, beh, noi cambi molto, è la verità. Se fai con le magliette, li facciamo, non cambia niente per me, la verità. Nominativo e poi magari le... questa cosa scritta, non so la verità, sarebbe bello una cosa così anche per l'estate, l'inverno, quello che è. Ma c'è scritto, vedi, Porco Manero, 4 luglio 2009, sesto raduno nazionale, canale 45, io c'ero, Gigi Vulcano, una festa condivisa da Pippo Apollo, che è il nostro amico Pippo Apollo, che è quello che la fa lì, quello che organizza lì è Pippo Apollo, carissimo amico mio, sono stato anche 2 anni fa a casa sua, ero lì a casa sua, sono stato a casa sua a pranzo un giorno, sono stato lì. Aggiunge gioia e ringraziamento. E così c'è l'altra stessa cosa, il sesto raduno 2010. E c'è la pergamella, quella non costerà molto, e se ne è fatta una pergamella, mi pare che pure le ha viste appese. E io le ho cominciate. No, la verità non le ho viste appese, però ti posso dire una cosa. A me piacerebbe molto fare un gemellaggio, per dire, tra noi e voi, il discorso è quello. Fare una cosa in grande, prendere voi possiamo ritrovare tutto tra noi e divertirci. E basta. Perché vuole venire la verità? Poi non lo so, dipende dalle persone anche. Ma non ci siamo problemi tra uno e l'altro, capito? Mi piacerebbe essere tutti uniti, cioè eliminare i problemi che ci sono da una parte all'altra, per cazzate quello che è, e essere tutti insieme, tutti assieme, divertirci e basta, solo quello mi interessa, perché la verità io la penso così. Io non ho sopportato, anzi ne ho avuto problemi sulla 27, però mi piacerebbe avere tutti d'accordo per come la penso io. E al limite la carta delle persone in più che possono entrare in 27 e i vicini magari che non vogliono più entrare perché non c'è più nessuno, quello che magari quello è un antipatico, no, prendere quelli che non stanno più ruolando e rimettere un sesto, poter entrare, superare le cose che ci sono vecchie per poter entrare di nuovo. Solo quello mi piacerebbe, la verità. Poi magari io sto sognando quello che è, ma io la penso così. Positivo, Antone, positivo. Adesso tu prendi Pippo Apollo. Pippo Apollo quest'anno io ci sono stato dell'ottavo raduno. E questo l'ha organizzata sempre questo Pippo Apollo, lì a Milano, a Porto Maleno, che non fa la zona di Milano, dai. E lui riesce ogni anno però siamo quasi sempre, io sono andato lì e sono sempre le stesse persone, più o meno non cambiano, sono sempre le stesse persone che vedi prima, sono sempre le stesse, e di solito sono intorno sempre a 400 questo raduno. Vedi, e lì non è che siano tutti del 45, no, ci sono degli amatori, tutto c'è. No, ma io già l'ho detto l'altra volta, l'altro giorno, non so se mi avete sentito, Antonio, cosa gli ho detto, il prossimo anno non c'è problema, anche se c'è qualche amico che vuole venire, che non, anche se non parla il baracchino, per me è benvenuto lo stesso, ho capito? Il prossimo anno vogliamo organizzare, faccio una festa tutta assieme, io l'ho già detto, l'ho detto prima, l'ho detto a tu. Li fanno tutti, sì, per me non c'ho problemi, se volete fare un coso, per me va bene, è un giorno di festa, quella è una cosa diversa che ho fatto io, una cosa che ti dico, non abbiamo parlato di paracchini, di nulla abbiamo parlato, ci siamo divertiti e basta, capito? Siamo tutti amici lì, tutti d'accordo e via, tutti ci siamo stretti la mano, io giustamente ho dovuto fare le presentazioni tutti quanti, presentarle a tutti perché io li conoscevo uno più, non li conoscevo tutti quanti. Il problema, ho detto così, altrove mi sono seduto a capo tavolo, mi sono seduto, ho detto, chi non conosce Gigi Vulcano se ne alzi e esca fuori, non se ne è alzato nessuno. Meglio così, visto, comunque sia, organizziamo tutto, cioè non c'è bisogno di condizionare giù, per dire, c'è anche i punti, quello che organizziamo di qua, facciamo i conti di quanti siamo e poi non c'è problema per quello, facciamo una cosa che qua, grossa come si deve, tutti cordiali, nessuno che si azzuffa da, capito, e quindi lo facciamo anche qua. Io ci tengo, la verità, perché ci tengo. Poi adesso vediamo cosa esce fuori. Che, tu lo sai benissimo, l'ho detto a Michele Polverone, gli ho detto se voleva partecipare, voleva venire, e mi ha detto le prime cose che mi ha detto, e tu lo sai benissimo che mi hanno organizzato, le hanno fatto Michele Polverone, e mi ha detto, dice no, io, dice, non ne farò più in vita mia, me ne vado con i miei amici, sì, mi faccio il pranzo, i pizzeria, quello che dice, pranzi di cibi non ne farò più in vita mia. Le volte l'abbiamo fatto qui, ho fatto e siamo usciti sempre alla mara, briati, afferrati e via dicendo, non avrò, perché si sdrondano quelle e quella, non ne avrò fare più in vita mia. Io l'ho pittato quest'anno, gli ho detto, perché siamo molto amici con Michele, e mi ha detto queste parole, mi dice, guarda, una volta l'abbiamo organizzato, l'abbiamo fatto e siamo sempre bisticciati e afferrati. Dice, no, non ne farò più, mi quando devo fare con i miei amici, me ne vado, sia in pizzeria, sia in ristorante, quello che è, però con CP non ne farò più. E tu lo conosci bene, Michele Polverone, lo conosci benissimo, Antone. posso, se io dico di venire, viene con me. Perché tu lo sai che io sono una persona seria, anzi lo sai anche tu che sono una persona seria. E quindi se dico vieni, sono sicuro che lui viene. Prese sotto la mia responsabilità, le persone selezionate, sono sicuro che lui viene. Quindi faremo anche con lui, non c'è problema per quello. Tengo, lui è un ex CB, adesso è amatore, quello che comunque è stato veramente in gamba, come lui e anche altri d'altronde, adesso passate la CB ai maturi, comunque quello che adesso organizzeremo, vediamo un pochino cosa dice lui. Io la penso così, magari lui la pensa con te, comunque io penso che lui venga, se lui dice che ci sono io, cioè se lui dice, cioè se Alice quello che io penso che già venga, perché lui lo sa che sono una persona seria. Adesso vediamo un pochettino quello che è. Ci sono, buonasera. Avanti a me. Io sono rientrato dalla macchina alla stazione fissa, sono qua. Ok, avanti, riprendi, non c'è problema. E niente, volevo dire, allora niente, domani dai, passo 9:30, ti chiamo così raggiungiamo lì a fare segni. Vediamo del signor Grobbe a che ora si fa vedere. Antonio, a te vai a te ti svegli? Sono vero. Dottore, mi devo fare? Sono, scusate lo sbadiglio, perdonate, sono 1:15, sembra così ma state andando già oltre. Guardate che di concessione avete pagato poco, quindi sfruttatelo poco il baracchino, spegnete. Io ho fatto una concessione, non la pago per niente, quindi posso anche fare quello che voglio. Comunque dimmi, a che ora svegli ogni mattina, usci a porto. Ma sei già, stai andando contro uno dei primi regolamenti dell'associazione, che chi fa parte dell'associazione deve categoricamente pagare ed essere in regola con la concessione. Tu dici così, allora io ti presento ogni mattina, la concessione è vecchia, cioè avevo col verbale, me lo paghi tu, quello vecchio, e te lo faccio bene, me lo conservato, appendetelo così, lo metti in cornice. Nella sede, l'unico imbecille che ha pagato l'esco post per 4 baracchi di cagatti, un toccaio, adesso mi ricordo la verità cos'era, 4-5, una cosa del genere. Poi, ti volevo dire, per la mia signora, che nominativo lì potremmo affibbiare, qualcosa di carino? Più di sole. Colpi di sole. Occhio di sole. Quanti occhi di sole? Che nominativo è? C'è un raggio di sole. Ah, Patrizia raggio di sole. Non è male, ti piace Patrizia? Tu dice col pollice giù e non le fa. Ma guarda, abbiamo battezzato parecchi. Voi non vi immaginate la gente che meglio per mentino. Ne ho battezzato una marea, guarda. Una marea. Battezzati da me. E la signora raggio di sole. Negativo, io proporrei Elettra. No, già battezzata raggio di sole, da oggi è raggio di sole. Elettra. Va bene giudicato, Patrizia raggio di sole, perfetto, perché no? Già un buon nominativo. Poi Elettra, io c'ho il film di quello, Il film è quello, Elettra, sai chi era Elettra? No, la minoranza non lo so. Viva purtroppo, nel senso che purtroppo è ormai un catafalco, è la figlia di Marconi, perché Marconi mise quel nome anche alla sua barca, quella da cui lanciò il primo segnale radio che raggiunse le coste dell'America intorno al 1901. Alla fine ho raggio di sole e ho Elettra. Tocca decidere la mia signora, sono due denominativi abbastanza complessi. Ma non puoi dormire invece. Ma dico libero! Elettra, come dicendo tu è il nome di una porno star, no? Elettra, senza Elec, Elettra. Ah, Elettra. Ma non è una bella fanna. Ciao, buonasera Massimiliano. Ciao, buonasera, buonanotte, buon mattino, come volete voi. Buonasera, a letto. Una volta, non si può più seduta, lo so. Ho pagato troppo poco di concessione, che se ne devono andare a letto, gliel'ho detto. Ah, positivo, positivo. No, io stavo dicendo del nominativo della moglie di Antonello. Stella Bianca è bello lo stesso. Allora, ho due amici io della Bianca, Radio di Sole no, non ce l'ho come amico. Il proprio amico c'ho Pippo della Bianca, ne ho troppi della Bianca, ci sono troppi della Bianca, capito? Radio di Sole no, Radio di Sole non c'è. Radio di Sole è perfetto, perfetto. E tu non sarai come amico Radio di Sole, però già c'è. E poi quelli che ci sono, Stella Bianca, sono in propagazione, sono dei spicci a coso, e non bisogna sentire. Pippo già viene qua ogni tanto, Pippo già viene qua in Sardegna, ma a me no, no, Radio di Sole è più bello. Meglio pazienza. No, vabbè, se di questo mi pare mi piace, là. Avanti, chi spera, c'è Antonello, poi c'è il Grotte, mi sembra, Gigi Vulcano, Pompolio, poi che c'è ancora Rotte. Grotte, basta le Grotte, andiamo bene. Oh, ancora il vino. Barracuda! Cosa ne so io, ragazzi, se sono un giorno all'altro ho cambiato il nominativo, cosa ne so? Un nominativo, Antonio Barracuda di Sidandia. Siccome c'è ancora la lingua legata dal vino bianco, me la sto slegando, dai. Anche io, dai, io quella del rosso. Allora ci diamo la mano, Antonio Barracuda, buonasera, ben sentito. Vai, ciao Antonio Barracuda. Oggi è marinato però. Domani ti sedevo io con la marina di Sorso, oh, la spagnola. Via, andiamo bene. Cosa ha deciso la signora? Guarda, io c'ho un collega che lavora con me di Ostrania, me lo sai. Ma scusa, non ti ho capito bene. Ha detto che io c'ho un collega di Usti che lavora con me. E chi è ese Guccio? Alessandro si chiama, c'è una spelicca. Pensavo con una scenic, nera? No, è color blu sul peste, una cosa del genere. Poi c'è un altro, si chiama Matteo. Sì, grosso, bello pienotto. Eia, c'ha una laguna stretto. Eia, abita, dai, diciamo al centro del paese, sì, già lo conosco bene. Io sono frequentato molto lì a Rusco, magari si conosce un altro. Polassi. Dai, prima si usciva di più, alla fine adesso in paese c'è poco e niente. E forse è che ci siamo visti, sì, perché no? Ehi, Polassi, io ne conosco parecchio di gente. Che ci ho frequentato parecchio a Rusco. Ci sono stato parecchio, ci ho frequentato parecchio a Rusco, capito? Ero mezzo fidanzato a Rusco, sono stato. Dove andavi? Alla discoteca Lightport, dove c'era quella mezzo aereo sospeso nell'aria? Questo cosa vuol dire? Che lei non lo sapeva? No, no, è una donna sposata adesso, è a Ussi. Ci piacevamo, dai, diciamo così, ci piacevamo all'epoca. E poi ognuno ha scelto la sua strada. E ve lo sia, con lei ho battezzato a Mario Sanna, che da quanto ho capito è vicino a te, Antone, in quella zona di Emmi. E lui è arruolato all'esercito, Antonello, ma Mario si è arruolato all'esercito, capito? Ci ho capito già capito che stai dicendo, senza fare nomi, sì. E poi ti volevo dire, all'epoca quando tu frequentavi in paese, dove andavi? Lì all'airport, dove dove c'era quel mezzo aereo sospeso, diciamo, sul lato sinistro della pista dal ballo. C'era il cinema, ricordo di Salendo, c'era il cinema che faceva la palla. E il cinema Branca? Branca, capito. Capito che l'ho battezzato, quel prete che se ne è fuggito con una donna, mi dà quello alto, quello con la barba, il prete che c'era di Aussi, che se ne è uscito dal prete e se ne è fuggito con una donna. E è positivo, già me lo ricordo, ero piccolino, dai. Avrà avuto, penso, 10-12 anni, ma già mi ricordo questa storia, sì. Alla fine che tu sono 6, se va, andiamo bene. Quel prete lì, me lo ricordo, era una barba alto. E poi se ne fu, in quel periodo lì, se ne ha fuggito con la donna, se ne è andato via, se ne è uscito la prete pure. Capito? Ho capito, senza fare nomi e cognomi, già in lui c'è poco da sbagliare, dai. Cos'era? Uccide il robo? Quasi. Però un zio di Mario, fratello che lavorava lì a Roma, all'Alba, come si chiama, quello che si è andato prete, stesso, si è fatto prete, capito? Sempre questo Sanna, si è fatto prete. Che poi alla fine abita nella stessa via della discoteca del cinema di Branca, la stessa via. E lì abita, allora, lì abitava la madre, capito? Il padre si era impiccato giù a Gioca. Esatto, boh, sei uno sceso, non sei stato reso due, tu sei sceso. E rimane il presto. Sì, con Paleangelo abita in cue, Vigente, quindi sopra, che si era a Muroso, o a Cargera, o che si usa in strada. E che avrò più, se ne parlo di bagliare, va. Tu esese, io sei su, e boh. Sì, dai, io ci venivo parecchio, dai, e li avevo, sì, dai, che c'erano un sacco di amici, capito? E ci venivo, poi... c'è Franco, il fratello, lo zio di Mario, c'è Franco, c'è Gianfino, uno mi pare che si chiama, poi c'è Mario il Grande, che lavorava a Lene in via Roma, che è stato in pensione, non so, il Grande Mario. Guarda, sono io che vi saluto, che sono arrivato a casa, buonanotte a tutti e saluto i belli, dai, non proseguo di questo. Ciao Massimiliano, buon proseguimento di serata. Oia, abbiamo messo da parte Pomponi, avanti signor Pomponi. Ehi, ciao Massimiliano, sono Tony, con quelli di buon tutto alle prossime. Dimmi. Ti fatti sentire, sei messo da parte, porca miseria, io. Sotto un attimino in cucina e stavo mangiando. Ah, stavo mangiando a faccia nostra, e domani, guarda, ti ammasso le mutande e ti scaldo il sedere. Sì, che bello, guarda, era ora. Oh, no! Eh sì, io ci godo almeno. Oh, no, che fai la cortesia, aiutami. Aspetta che stavo vomitando un attimo. Visto, non ti ha detto nessuno, lo sapevo io, Guarda Antonella, non ti vogliamo bene tutti e due, hai visto? Portato qua, io e Bruno ogni volta facciamo pezzettini e tu ti abbiamo fatto i bacioni, hai visto? Ho visto. Ho la mia... non so fare così ormai. Vai tranquillo, vai, che domani ti offro un bel caffè, vai tranquillo. Il numero cosa che registrano ti mando un paio di registri. Ah, mi piaceva mia moglie, mi ha detto che numero di registri lo porti, così te li presta lei due o tre paia. La retta non mi sono fatto stasera, io ho chiesto con le due amiche mie spagnole che sono andato oggi, mi ha detto dice... E ci viene dentro, ho detto c'è umidità nella dentro, tipo qui glielo chiedo quanto c'ho di seno, se ce l'ho piccolo, anzi non di seno, perché io sai che siamo io porto solamente leggi calze di sotto. Se la cortesia appunto aiutami. Quindi faccio fare la misura, la roba è molto piccola, c'è proprio per quella, che c'è la nuova pensione per quella. Pronto, aiutami. Sta succedendo nel QTH? Che dico, registero, misura, brasiliane, ci vuole proprio nel 2009. Boh, già, a parte che, ti ripeto, la tua signora non glielo può prestare il reggiseno perché c'è la più grande pomponio, il seno, le tite che gli stanno uscendo, via. Infatti. Ma cosa vuoi ti dica io? Neanche io la mica mia prende questa. La misura. Comunque, Pompo, se mi interessa c'è anche un'altra associazione che me l'ho già fatta da tanto a Sassarie, che c'era come primo socio c'era il nostro ragioniere, c'eravamo noi in deposito da lui, che adesso se n'è andato in pensione, e lui faceva parte di quel club lì. Sì, ho fatto associazione io ma non da adesso, no? Tanti di anni fa, ho fatto il set di Sassari, ho fatto il set di Paolo Torres, quindi mi ha fatto associazione, la verità, mi si è fatto anche il culo per loro, eppure non ne valeva la pena, perché a un certo punto risultava che magari si mangiavano i soldi, capito, le cose e quello, quindi se si fa una cosa come si deve, se si fa solamente per gli altri, non per noi, solo per gli altri. Quello che rimane si dà per gli altri e basta. Sì, ma anche questo ragionamento nostro ti ha fatto il culo, perché era un'associazione, era un club dei gay, capito, dei gay, e lui faceva parte come primo socio. Ma io sono qui, non sono lì ancora. Quando divento lì te lo faccio sapere. Al limite, adesso con i tipi che sono non c'è problema per quello. Ci passa tutto, maschi e femmine, cosa mi la fute a me? Sì, sì, sì, questo. Dai, con me andavamo d'accordo con la verità, questa ragione, poi avevamo tanti altri di 20 anni che ha lavorato insieme nella ditta dove lavoravo io, le ragionie, l'impiegato che ci avevamo. Come con gli altri autisti, no, no, perché lo pigliavano in giro, perché era così. Ma con me, sai, io sono più fatta la buona. Con me era l'unico che andava d'accordo. Lui andava d'accordo e mi faceva vedere tutto, si faceva una salta, si faceva i vestiti, e le scarpe con i tacchi, i vestiti, si vestiva la donna, usciva la notte, si vestiva la donna, questo qua. E quando si faceva questi vestiti, con studi, li faceva vedere, apriva il comama che faceva vedere i vestiti quando non c'era altro nessuno, però li faceva, perché se no gli altri autisti non prendevano in giro, invece io la secondavo, infatti con me è stato sempre gentile, sempre coso, con me faceva vedere i vestiti, io dicevo, belli, ma lo facevamo un po' in giro così, cose li facevo, bello di sempre, facevano i vestiti di le scarpe rosse di carnevale, ne approfittava e si faceva tutto, si ritirava il petto e faceva vedere e si metteva la donna, questo qua, capito? Questo ragione c'eravamo noi e c'era questo club che avevamo fatto lì a Sassari, che si riunivano lì. Pazienza, ognuno c'ha i cosi suoi, diceva quello. Comunque io ho visto, anzi conosciuto, la verità, non visto, conosciuto maschi, che poi sono donne, la verità, che non te ne accorgi nemmeno, spagnoli o brasiliani, non te ne accorgi a meno che non balli con loro e tocchi sotto, che c'è manganello, capito? Il discorso è quello lì, quindi se vuoi zitto, una volta tocchi quello, boh, fatta. Non andiamo senza andare molto lontano, ma è successo, è capitato da poco, si era sposato. guarda che qua c'era questa ragazza bionda con queste cosce lunghe, con questo seno, con questa minigonna, guarda, una cosa impressionante. A me mi si sono addrezzati anche i baffi, hai visto i baffi a tu, mi si sono addrezzati anche i baffi a me. Era quel fidanzato, una persona abbastanza distinta, anche lui era sordomuto, bello, alto, un bel giovane, bello di bel aspetto, dai, mi sembrava un bel coso. E lì è tutto normale. Però sai cosa si sa, si vede una bella donna così, con queste gambe lunghe, con questa minigonna, che ti deve dare molto il coso, ti deve fare un po' finta di no, di coso. Tutto è finito lì, poi si mette a ballare, dopo il coso, quello e quell'altro. È capitato che un giorno avevano organizzato una spontinata, sai dove c'è quel magazzino io, attorno mio figlio, che se ne è venuto a abitare qui a Parma, quello lì. Oh, e si vede arrivare questa, ah, di quella buona mia, che sta arrivando, non mi so, non me l'aspettavo, io mi so questa nuovamente, e tutto a masse non mezzo fuori. Però era il fidanzato e il marito. E lì avete detto, non capisci più niente. È come la volta del matrimonio era col fidanzato. E questo, invece, il giorno c'era il fidanzato e mi ha presentato che era il marito. Ho detto, qua c'è qualcosa che non mi torna. Cioè aveva il fidanzato e il marito. E tu, un po' sbacciocchiava uno, un po' sbacciocchiava l'altro. E tu, qua non ne capiscono. E restiamo lì a non capire più niente. Io ho detto a mia nuora, mi sono avvicinato, ma come mai hai detto questo? Ho detto, c'è il fidanzato, c'è il marito, come si spiega questa cosa? No, dice, non è donna, no, è uomo. Io quei due volte l'avevo visto, che ero seduto davanti e non mi ero accorto che era uomo. No, mi ero raccontato il consenso di Pompugno, guarda, si c'è fuori di testa, No, assolutamente non tubo io, no. Purtroppo capita così a volte, non te ne accorgi nemmeno, finché non tocchi sotto, che ci manca lei. Scusatemi, ma io sono ancora giovane, sono piccolo e certe cose non le posso sentire, quindi ne approfitto per augurarvi un buon QRT quando lo farete, un buon 144 quando lo farete. Antonio Grotte chiude le trasmissioni e va in QRT per fare un buon 144, in modo tale che domani mattina sia fresco e raggio di sole per venire a scroccarvi un caffè. Ben sentito Gigino Vulcano, ben sentito Antonello Barracuda e signora, e ben sentito anche ad Alessio. Antonio Grotte chiude le trasmissioni. Antonio, c'è uno che ti sta chiamando Antonio, rispondi. Oh, ciao, fate la buonanotte, dai. Grotte da parte di Barracuda e raggio di sole, perché ormai è stata oggi battezzata la mia signora Patrizia Raggio di Sole. Ti saluta, anzi ti salutiamo, ti auguriamo una buonanotte. Domani, ciao. Gigi. Antonio. Eia, deciso è. Battezzata l'hai, Patrizia Raggio di Sole. Sì, è bene, no, lì non ci piove, dai. No, io ne ho battezzato, guarda, un'infinità. Sai dove dire un'infinità? Battezzato il mio collega Mario Terremoto, un giorno anche Angelino non ci sente più e non ho più sentito, forse te lo ricorda Pompugno, che è lì vicino alla fianca all'aeroporto, e una radio che sentivo così, noi stiamo cercando il nominio, cosa, ho visto un cinghiale, mettimi cinghiale, e tu mi metto, no, siccome io questa radio non lo sentivo, allora ho messo Radio Fantasma, ho detto la Radio Fantasma, tu sei una Radio Fantasma. Capito? A volte appariva, a volte spariva, e ho messo Radio Fantasma, poi ho messo Radio Telemoto, l'ho detto, l'altro giorno ho battezzato Radio Barbaccia, l'Espresso Gallura, l'ho battezzato il giorno lì a Costa che chiama per fargli la maglietta, l'ho battezzato lì, il Sassarese che è per Paolo, che l'ho battezzato, gli ho detto a Tommaso, ho detto diglielo tu perché se glielo dico io non lo vuole quel nome lì. E allora gliel'ha fatto Tommaso Civa, ha detto diglielo tu se non lo vuole. Poi ne ho fatto tanti, che Radio Paccano, Albino, capito, Tommaso Squalo, Angelo Cobra, ne ho fatto tanti, ne ho battezzato. Del raggio di sole? Come mai è proprio il raggio di sole? Non l'ho mai detto, non l'ho mai messo a nessuno, è un coso, diciamo, che mi è sempre piaciuto, capito? A volte quando ero ragazzo vedevo quei film di West, degli indiani, e c'era sempre quella, c'era una che mi aveva colpito, che si chiamava Raggio di Sole, questa ragazza bionda con gli occhi chiari, e Raggio di Sole, capito? E mi ha colpito quel nominativo lì, capito? Scusami un attimo, Gigi, la cosa più strana, ma veramente strana, cioè, giustamente non hai visto a me, ti ho visto in fotografia, sei molto giovane, anzi sei 25 anni, però c'è poco da dire. Sì, lasciami parlare. E fatto sta, mia moglie c'ha i capelli biondi e gli occhi chiari, porca miseria. Ho capito la voce, hai capito? L'hai capito dalla voce? Sì, l'ho sentita ieri parlare, l'ho capito dalla voce. Allora, complimenti, Patrizia Raggio di Sole, aspetta che te la passo così la battezzi. Esatto, C'ho la costante in mano. Salti Raggio di Sole. Grazie del Raggio di Sole. Ci vuole la costante, io ce l'ho, cosa devo fare? Ma devo buttare addosso, cosa devo fare? Ma se la costante ce l'hai, perché? Sì, ce l'ho, mi dica come devo fare. Quando ci incontriamo ti metto la mano in testa come ho fatto agli altri e sei già battezzata. Comunque sei già battezzata da quando prima hai incontrato la prima volta. Va bene, la ringrazio, molto gentile. Ma guarda che essere battezzata da Gigi Vulcano, quando tu parli, ti do il tu perché so che l'età che c'è perché l'hai detto e sei molto più giovane di me, perché sei molto più giovane di me, e quando ti chiede ma questo nome che anche qualcuno che non conosce nessuno qua, tu dici ma Gigi Vulcano, ah, dici allora lei è una persona molto fortunata. Grazie tantissimo, anzi la ringrazio tantissimo, le do del lei finché lei non mi dà il permesso di darle del tu. Come lo può dare che mi sono permesso di avere tu perché sei giovane, capito? Perché sei molto più giovane di me e io, siccome sono molto giovane dentro, mi va bene, mi devi dare del tu. Grazie, allora le darò del tu, ti darò del tu. Sì, ma va bene così, a posto, capito? Perché Gigi Vulcano è conosciuto in tutto il mondo, capito? Non è, capito, che ti ha dato questo diciamo, questo nomignolo, questo nome di al baracchino che ti ha battezzato. È una persona che è conosciuta in tutto il mondo. Gigi Vulcano lo conoscono in tutto il mondo, capito? È conosciuto in tutta Italia, dappertutto mi conoscono, capito? Se tu chiedi, ma sai, ecco sì, io conosco Gigi Vulcano, chiunque quando adesso inizierà a parlare a Baracchino, che entra anche in altri canali, altre cose, che conoscono, perché sono che giro, l'ho detto prima, vado a queste riunioni, questi raduni su in continente, capito? E sono conosciuto, parlo molto fuori con tutti, capito? Sono conosciuto da anni e anni che. Ecco perché, capito? Sono molto onorata allora di aver avuto il mio nomignolo da Gigi Vulcano. Sì, tu quando lo dirai in giro, che capiterà di qualcuno che sentirai che arriva da fuori, ti dirà ma ha avuto un brutto. Anzi, prima è tutto, prima proprio, ero con Falchetto così. Ho sentito un amicaccio, l'ho riconosciuto la voce della Olanda, in Olanda era prima stasera, io l'ho chiamato per nome e lui mi ha detto, dice, sento la voce del principe di Sardegna, sento la voce di Gigi Vulcano, il principe, perché le chiamo il principe di Sardegna. È un dolore alla fine, porca miseria. È positivo, è quello sì, è capito, quello... Ma l'hai visto il filmato, il commento che hanno fatto su di me, su Gigi Vulcano, il filmato non l'avete visto? No, la verità, hanno visto le foto di un po' di tutti alla fine, giustamente persone mai viste, l'unico che conoscevo era Falchetto e Claudio Sparviero, poi ho visto a te, poi Gigi Vulcano, qua è Gigi Vulcano, è impossibile, con quella voce è impossibile che sia lui, per quel tempo non è possibile. Sì, qui è Gigi Vulcano, e la verità il video non l'ho visto, ce l'aveva lì pronto, però non l'ho guardato. Non diciamo, guarda, non avevamo avuto il tempo di guardarlo. È positivo, comunque, c'è stato Andrea Prizzi che ha voluto fare la presentazione, una cosa, ha voluto fare un commento su di me, quello del vero che forse Antonio non l'ha visto. Ha fatto un commento, dai, della persona che è più conosciuta in tutta Italia. Perché è vero, perché, allora cosa dicono di me? Hai conosciuto più Gigi Vulcano che Cappellacci. Cappellacci quando arriva a Cagliari, sono conosciuto più io che Cappellacci in Sardegna, sono conosciuto più, dicono questo. Va bene, cioè allora c'è da mettersi la corona, la verità. No, comunque grazie anche da parte mia per. Se illumino la mia signora, da oggi in poi Patrizia raggio di sole, buon fatta Senti, ma non so se l'avete mai visto quel film anche in cinema, sono andato a vederlo anche in cinema, e mi aveva, diciamo, questa ragazza indiana, con i capelli, che è difficile essere bionda, con le capelli belli biondi, le treccine, gli occhi chiari, bella, ecco, quella è il nome nativo, era il raggio di sole, capito? E l'avevo visto da ragazza di questo film, capito? Ecco perché il raggio di sole mi è sempre piaciuto. Meglio così, era ora. Vabbè, comunque sto facendo quelli di è già tardi, ci sentiamo domani mattina. Ciao Luigi, ciao. Ci sentiamo tutti domani mattina. Stemmi bene, buon quelli buon tutto. Dopo quando lo farete. Ehi, ciao Antonio, allora che ora passo domani? Quello che vuoi, non c'è tutto, 9:30, quello ti pare piace. Ah, perfetto, va benissimo, allora ti auguro una buona notte da parte mia, aspetta che ti saluto a raggio di sole. Ciao Patrizia, ci siamo domani mattina, buonanotte anche a te. Non è fatto la buonanotte, buon tutto, dai. Allora, sai che io sono, quando non lavoro non ne ho sonno, non ho sonno, se vado a coricarmi non dormo adesso. Beh, con te. Va bene. Saluto anche da parte mia, le auguro di sognare tante cose belle e positive e che pensi altro quando dormi. Pensa a me. Sì, ma positivo, no, io penso a tutti, dai. No, penso a tutti io, dai, tranne che a Pompugno. E adesso sai cosa sto facendo, Gigi? Sto pieno di costruirmi un bipolo e tra un po' lo provo a vedere come esco. Positivo, ma trovate le misure di bipolo, io c'ero a me, c'era la buona anima di Giancarlo, un grande tecnico che è mancato lui e purtroppo è morto, poveraccio. L'anno scorso, no, fa 2 anni, agosto fa Giancarlo, sono già 2 anni che è morto, no un anno, o è morto l'anno scorso, non mi pare, no. Io sono convinto se fa un anno o 2 anni agosto. Lui mi aveva fatto tutti i disegni delle come costruire le antenne, le cose, le misure, tutto mi ha fatto. E ce le ho io quelle tutte stampate, quelle cose lì, capito? Per fare tipori, queste cose così, tutto, perché per fare un bel lavoro, per far funzionare bene ci va anche un pezzo di capo di antenna di televisione, mi pare 1,5 m, 1,35 m mi pare, di cavo di fare collegarlo al filo dell'antenna del baracchino. Mi pare 1,30 m. Ci sono tutto segnato, c'è il disegno come le misure, tutto c'è. Tu investiti in quelle antenne che ti puoi costruire tu. No, questo lo sto facendo, allora 1,75, sì, no, sì, 1,75, 1,75, filo destro e filo sinistro. Lo sto facendo di saldare per questo ultimo anno, lo provo a vedere. Dovevo metterlo sul tetto oggi, poi non ho avuto del materiale dai, per fissarlo bene, comunque domani mattina ce l'ho. Adesso lo provo qua, sto facendo di saldare un cavo e poi provo a vedere come sta uscendo. Vediamo anche un po' come stazionarie. No, 1,75, 2,75, 2,75 e 2,75 mi pare che, no 1,75, 2,75. Almeno sto facendo un 50, io sto facendo mezz'onda. No, e perché fai mezz'onda? Fallo 2,75 come cioè i disegni che ho fatto qua, che va bene, 2,75 con il pezzo di 1,35 di antenna di televisione. Il filo del cavo della televisione 1,35 m sopra di attaccare, collegare al cavo elettrico, almeno è uno al più, capito? Perché non so, questo pezzo di spezzone non so che cosa fa, che cosa serve, che cosa ti fa un qualcosa che non so che cosa, comunque ci vuole. Questo è fatto da uno che veramente ne costruisce, ne faccia. Da un grande tecnico, radioamatore grande tecnico, e mi facevo tutte le riparazioni a me e di tutti questi di che c'erano qua in stazione in Sassari, facevo riparare. Ma questo è un bisogno, mi ha dato Claudio, che era poi alla fine preparato lui. Sto cercando di ultimare, perché sono tanto facendo diverse misure, diverse posizioni diciamo di come lunghezza di cavo, però questa che mi ha fatto costruire lui è una mezz'onda, poi come mi stai dicendo tu, allungando diciamo il cavo a 2 metri e passa, quello diventano a 5 ottavi, va bene se una per l'altra, giustamente per la 27, però sono due cose completamente diverse. Io sto facendo una mezz'onda, capito com'è la storia? Dunque facendo il doppio di 1,75 sto facendo 5 ottavi. Positivo. Non lo so, io le ho viste fatte così, i disegni mi ha fatto Giancarlo, no? Ce l'ho, io ce l'ho lì a Pisa in quel magazzino dove ho attrezzatura, a volte faccio qualche lavoro dai baracchini. E ce l'ho lì tutte le cose a per me, mi aveva stampato un po' di roba dai, e ce l'ho lì e le misure erano diverse, perché poi puoi stendere in corpo, puoi fare tipo piramide e ci sono delle misure, delle cose da rispettare e ci sono tutte le cose come e non è più una direttiva, perché di polo poi quando lo metti deve essere lo devi mettere per esempio verso da usi verso salta, dipende come dove lo devi secondo velocità non va bene, capito? Serve per ridurre la resistenza di radiazione e te la fa passare da 75 ohm, che è quello spezzone di cavo, a 50 ohm per poter utilizzare il cavo che utilizziamo noi, che è l'RG58. Oh, bravo, proprio così, c'è scritto proprio così, è così, proprio così è. Stavo dormendo, dormiglione. Quando dormo penso. Proprio così, quello che me l'ha fatto a me, questi disegni, queste cose, una persona, Claudio lo conosci, l'ha conosciuto in passato, era un grande veramente, faceva tutti gli apparati di cose, li portavo io, viaggiavo io in camice, li portavo io di Valte, di tutti qua di stazione, di Claudio, di un bene gli ho portato di apparati a mettere a posto e allineare, a fare, era un grande tecnico, solo che è mancato questo Giancarlo, diceva tutti i pezzi di ricambio, tutte quelle radio antiche che aveva, tutte gliele ha messe a posto, fatte, revisionate, ma quelle antiche americane, lui c'aveva tutti i pezzi, buscava questo, tutto, infatti questo Giancarlo, se io non ho cercato, però Giancarlo Cicco, se tu lo cerchi, ha lasciato tutte le cose, le modifiche, le cose. volte tutto il computer prima di morire, è morto di quella malattia brutta. Ha lasciato tutto, come hanno detto, io non l'ho visto, però mi hanno detto che ha lasciato tutto per fare certe modifiche che vuoi fare agli apparati e cosa, ha lasciato tutto, c'è chi vuole imparare, che vuole farlo, l'ha lasciato in computer, l'ha inserito in computer prima di morire. Ma comunque, se tu guardi la lunghezza di quel cavo di 75 ohm, è esattamente la metà di un braccio del dipolo. Tanto è vero che tu ce l'hai da 2,75 o da 2,70, che comunque diviso 2 sono 1,35. Ma la misura è quella di 1,35, una cosa. No, i disegni che ha fatto lui Giancarlo, non è che ce l'ho io, cioè io ho gli stampati, ma ha fatto lui un 5 anni fa pure, me l'ha fatto gli stampati Giancarlo, io ce li ho lì, tante cose mi ha fatto Giancarlo, tanti collegamenti potevo fare, tutto stampato lì, e ce l'ho tutto appeso, io ho fatto le cose, questi fogli, no? E me li ho tutti appesi, capito? Li ho appesi, ho fatto il coso, la specie di coso, li ho attaccato, me li ho tutti appesi. Sì, a un coso, capite? Quando ogni tanto voglio vedere qualcosa vado, riprendo e controllo, capite? Questo è questo lì, metti questi tipi di antenne. Mi ha fatto tutti i disegni, tutte le misure, le cose per costruire tipi di antenne per, sia per 27 per altre frequenze, capite? Me le ha fatte tutte stampate da casa. Io continuo a dormire, scusate. Sì, voilà. Antonio. Adesso collego, vediamo come sto uscendo, dai. Adesso collego tutto quanto, due secondini, vediamo un po' com'è la storia. Cosa è tipo? Perché l'hai già fatto? Sì, è pronto da ieri. Devo solamente collaudare, adesso attacco questo rosso, mentre vediamo un po' se ho stazionarie, diciamo che con te mi dice se sto uscendo direttamente. Devo solamente fare un collegamento, il baracchino e questo rosso, mentre vediamo un po' come esco. Due secondini, dai, vediamo un po' cosa mi ha tolto fuori. Metti fuori il terrazzo, come hai? Come ha fatto uno lì a Polotore, ce l'aveva messo in terrazzo e ce l'aveva in terrazzo e l'aveva messo da un filo da una parte dall'altra e la moglie stendeva la biancheria, capite? Sembrava un ferro, un filo da stendere, sembrava. E infatti è già pronto fuori, faccio solamente un'altra piccola saldatura per essere pronto, vediamo un po', aspetta un attimino. Deve saldare, te deve fare, deve saldare ancora, non vuole aspettare tutto. Se ti metti a saldarlo adesso, non è per adesso. No, è tutto pronto, stiamo stremando solamente un PL e basta, tutto lì. Adesso collego e vediamo un po' cosa ne c'è fuori. Positivo, dai. Si è fermata la sveglia, c'è la sveglia sopra qua, alle 9:15. La batteria deve essere. Approfitto a bermi un sorso vicino al segno di acqua. Ah, io sono quasi per collegare.